E ben ritrovati come sempre ad una nuova puntata di Rock Legends. Al microfono come sempre il vostro Jean-Luc, puntata che vede ancora ospiti. Questa volta dal veronese è venuto a trovarci il rappresentante di una formazione che avevate sentito tempo fa in diretta live e che stasera ci presenterà il suo disco. A te le presentazioni. Ciao a tutti, sono Andrea dei Quinta Stanza e grazie a Jean-Luc per averci invitato. E con Andrea di Quinta Stanza, una prima parte all'insegna dell'AOR americana degli anni 70 ed inizio 80, prima canzone era Love on the Telephone dei Foreigner dal disco Head Games del 1979. Successi e dischi di platino per una band che nella sua storia ha venduto qualcosa come 70 milioni di copie realizzando un sound semplice e diretto che ha conquistato il pubblico mondiale. Che ne pensi? Beh, cosa dire di una formazione che ha al suo attivo 23 album ed è ancora... Attiva, anche se ovviamente no? Alcuni dei membri sono cambiati. Insomma. Certo, però è un sound avvolgente, molto coinvolgente, quindi insomma tutto rispetto. I Quinta Stanza immagino siano assieme da un po', una cronistoria della band, perché avete deciso di chiamarvi così? Noi siamo insieme dal 2005 circa, ma il nome Quinta Stanza nasce nel 2008, quindi la band attuale parte da quell'anno lì. E il perché del nome non te lo dico perché ecco, è un mistero. È un qualcosa insomma che deve rimanere così, quest'aria un po' misteriosa. Però ti posso dire che poco dopo aver dato il nome abbiamo scoperto di suonare esattamente nella quinta stanza. Ecco, vedi, alla fine il destino. Alla fine, era scritto nel destino. Ancora musica rock e continuiamo con i Boston, formatisi in fretta e furia dopo il successo del primo singolo realizzato dal chitarrista Tom Scholz in uno studio domestico con dei turnisti, esordirono nel 1976 con l'omonimo disco da cui ci ascoltiamo Peace of Mind. Yeah. Il suono di Boston, nonostante siano passati 35 anni, rimane incredibilmente fresco e attuale. Che ne dici? It's more than a feeling. Hai già detto tutto, insomma. Eh sì, un gran gruppo, una pietra miliare nel rock statunitense, quindi insomma, tanto di cappello. Dispiace molto per la morte del cantante qualche anno fa. Brad Delp. Esattamente. È stato trovato gran voce, morto. Gran voce. Vostre esibizioni, come sono andate? Quali le più importanti in termini di esperienza e le impressioni che avete raccolto dal pubblico alla fine dei live? Guarda, le impressioni sono sempre state molto positive, facile dirlo, no? Quando mai ti potrei dire che sono state negative? No, mai, per il momento assolutamente. Però, insomma, no, siamo stati molto contenti, insomma, di tutte le esibizioni che abbiamo fatto in termini di, così, di plauso da parte del pubblico. Noi ci divertiamo, ci piace fare la nostra musica. Purtroppo non è sempre facile emergere come normale. Indie rock, no? Musica indipendente, ci sono pochi locali che sono disposti ad accettare un gruppo che fa musica propria, però nel momento in cui ci incontrano difficilmente ci lasciano. Beh, dai. Concludiamo questa prima parte con i Toto. I più fortunati avranno modo di vedere la band di Steve Lukather in quel di Villa Franca per un ultimo concerto in luglio, ma per ora torniamo con loro a 1981 con il disco Turn Back, da cui ci sentiamo il brano Gift with a Golden Gun. A fra poco per la seconda.